34. La morte del secondo re. La mattina seguente, domenica 7 gennaio 1866, Anna dormì fino a tardi. Si sentiva stanca dopo 6 giorni di feste, anche se non aveva avuto grosse responsabilità. Alle 10 circa, lui si arrivò correndo per annunciarle che il secondo re era morto. La notizia non era inattesa, perché il secondo re era malato da mesi e all'inizio di dicembre era stato riportato in gran fretta a Bangkok dal suo ritiro a Saraburi. Se fosse morto durante la cerimonia della tonsura, la nazione sarebbe piombata nel lutto e le celebrazioni sarebbero state sospese. Con il riserbo che aveva segnato tutta la sua vita, aveva aspettato a morire dopo che le cerimonie si erano concluse. Anna si appoggiò al guanciale e pensò con pena: bene, alla fine è scappato. Il principe era stato, di fatto, per 2 regni, un prigioniero politico. Durante il primo, sotto diversi aspetti, la sua vita era stata molto più facile. Il principe Monkut si era rifugiato nel sacerdozio, ma il principe Chutamani aveva deciso di continuare come sempre. Nonostante fosse costantemente sorvegliato da spie, era sempre sereno e aveva avuto una vita piena. Aveva imparato l'inglese dal signor Robert Hunter e lo aveva usato con una grazia e correttezza che Monkut non sarebbe mai riuscito a ottenere. Il re lo aveva nominato sovrintendente all'artiglieria e alla fanteria malesi, oltre che segretario per la corrispondenza inglese, e lo aveva innalzato al titolo di Krom Kun Isaret Rangsan. All'inizio del regno era stato mandato a sovrintendere la costruzione di importanti lavori per la difesa alla foce del Mekong. Nel 1842 aveva comandato contro la Cocincina una spedizione coronata da successo. Poi il re gli aveva affidato l'incarico di ricostruire le antiche fortificazioni di Paknam secondo modelli occidentali. Aveva assunto una squadra di ingegneri e artigiani occidentali e aveva colto con fervore l'opportunità di migliorare le sue conoscenze scientifiche. Gli europei che aveva incontrato ammiravano il suo spirito liberale e la sua profonda comprensione degli avvenimenti mondiali. Incarnava le speranze della nazione e le sue tendenze più progressive. La sua abilità di statista imponeva il rispetto alle delegazioni che erano venute a negoziare trattati durante il regno di Monkut. Era di aspetto piacevole, bravo in tutti gli sport e così popolare tra la sua gente che alla morte dell'usurpatore nel 1851 tutti speravano che sarebbe stato scelto come re. Se Monkut avesse deciso di rimanere nel sacerdozio, la successione del principe Chutamani sarebbe stata certa, ma Monkut scelse il trono, relegando così il suo più abile fratello nel ruolo senza potere di secondo re. Dal momento che Monkut era stato in convento per quasi 30 anni, la sua decisione di lasciarlo doveva essere stata uno shock per il fratello più giovane, che si era preparato a salire al trono, ma aveva sopportato la delusione in silenzio. Le sue grandi capacità vennero sfruttate per modesti lavori di costruzione all'interno delle mura del palazzo. Quando Monkut salì al trono, per compensare in qualche modo la posizione di scarso potere, aveva insistito perché a suo fratello venissero conferiti un titolo più alto di quello conferito a ogni secondo re che l'aveva preceduto, quello di Prabhat, Somdet, Praapin, Klao, Chao, Yu Hua e altri onori. Ma non passò molto tempo che la gelosia tra i due fratelli divenne evidente. Nessuno ne conosceva le origini. Si sussurrava che il secondo re era logorato dal fatto di non poter sposare la donna amata perché era una principessa di primo rango e poteva essere offerta solo al re supremo. Qualcun altro diceva che entrambi erano influenzati dalle male lingue dei propri cortigiani, i quali al primo re sussurravano che la popolarità del secondo era una minaccia costante al trono e al secondo re insinuavano quanto fossero infondati i sospetti del primo sulle sue intenzioni di ribellione. Forse i semi di quel sentimento andavano cercati nell'infanzia. Un anziano prete di nome Pranet, che era stato uno dei tutori del principe Chutamani, aveva raccontato ad Anna molte storie sulla giovinezza del principe. Con tristezza le aveva riferito che l'astrologo, nell'oroscopo fatto alla sua nascita, aveva previsto una morte per cause non naturali. A causa di questa profezia, sua madre lo aveva controllato con una tale devozione e imprudente parzialità che il figlio più grande si era sentito quasi escluso dai suoi affetti. Beh, se questo era vero, il sentimento tra i due fratelli non era probabilmente nuovo, ma nasceva dai favoritismi materni ed era rimasto latente durante l'esilio. Dopo la nascita del principe Chulalongkorn, tutti sapevano che il re desiderava che fosse lui a succedergli e che temeva che la sua morte prematura avrebbe privato il figlio del trono. Perciò, invece di sfruttare le capacità del fratello, lo aveva escluso sempre di più dalla partecipazione attiva al governo, finché alla fine il secondo re non era che un prigioniero nel suo stretto dominio. Più di una volta aveva avuto la possibilità di spodestare il fratello e prendere il trono, ma non aveva mai compiuto una mossa in quella direzione. Si diceva che molti gruppi sarebbero stati lieti di farlo anche senza il suo consenso se il Kralahom non fosse intervenuto e se il secondo re non si fosse immediatamente schierato con lui. Tuttavia Monkut, incapace di fiducia, aveva continuato a sospettare del fratello. Tra le molte piccole scortesie sopportate dal secondo re c'era la presenza continua di un certo dottore. Sapeva, come tutti, che l'uomo era una spia che gli era stata messa vicino dal re Monkut e che era nella posizione di avvelenare il fratello più giovane se e quando il fratello più grande avesse giudicato opportuno impartire l'ordine. Nonostante questo, però, tra i due fratelli per molti anni non ci fu una rottura aperta. Poi, un giorno, il secondo re fece richiesta alla tesoreria reale di una grossa somma di denaro. Per espresso comando del primo re, l'istanza non venne onorata. Il giorno seguente, re Prapin Klao lasciò Bangkok e si diresse a nord con i cortigiani più fidati. Andò direttamente a Chiang Mai, la più potente delle province del Laos, il cui principe era un focoso comandante che più di una volta aveva affrontato il re con resistenza impavida e arrogante. Il re Monkut non aveva mai osato spingerlo troppo oltre, temendo una rivolta aperta che avrebbe potuto gettare le province del Laos in mano agli inglesi. Non appena il principe seppe dell'insulto fatto al secondo re, senza ostentazione gli mise ai piedi il denaro richiesto. Quel gesto di simpatia rappresentò l'inizio di una solida amicizia. Il principe non accettò l'intera somma, ma ne prese una parte. Invece di tornare alla capitale, andò a Saraburi, a 150 chilometri, circa a nord-ovest di Bangkok, sul fiume Pasak, e vi eresse un palazzo fortificato che chiamò Ban Sita, la casa del dio Sita. In seguito si recò raramente a Bangkok se non per affari o quando era necessario per il giuramento di fedeltà che si teneva due volte l'anno. Il re Monkut, allarmato dalle possibilità insite nell'amicizia tra il principe di Chiang Mai e suo fratello, ordinò al principe del Laos di mandare a Bangkok suo figlio come ostaggio. Quando la convocazione venne ripetuta in modo più perentorio, il figlio del principe si rifugiò a Ban Sita per qualche tempo. Il suo vecchio padre coraggioso scese il fiume in gran pompa e portò a Bangkok un ostaggio di sua scelta. Anche se il re Monkut fu seccato per l'oltraggio alla sua autorità, lo accettò con un certo garbo. Agire in altro modo sarebbe stato pericoloso. L'amicizia del principe di Chiang Mai con il secondo re portò al matrimonio tra la sua bella nipote, la principessa Sunatda Wismita e Praopin Klao, solo poco più di un anno prima della sua morte. Lei era una bellezza molto desiderata che il re Monkut avrebbe volentieri aggiunto al suo harem, ma che non era riuscito ad assicurarsi. L'etichetta proibiva che i due fratelli andassero a caccia nel serail dell'altro, e quando re Monkut apprese del matrimonio con la principessa, si lamentò che quando viaggiava nessuno gli portava belle ragazze, ma che tutti gettavano le loro figlie più belle ai piedi del fratello. Quando la sua malattia ebbe inizio, il secondo re si trovava a Ban Sita. Il dottore, temendo che potesse morire, ne organizzò rapidamente il ritorno alla capitale. Venne portato immediatamente al palazzo di Krom Luang Wongsa, medico del re Monkut e fratellastro di entrambi, membro dell'Accademia di Medicina di New York. Il principe Wongsa capì immediatamente che non c'era niente da fare, la morte era solo una questione di tempo. Quindi il secondo re fu trasportato al suo palazzo e sistemato in una camera a oriente. Era il 6 dicembre 1865. Il re e il Kralahom si affrettarono al suo capezzale. Non furono scambiate parole. I fratelli si abbracciarono e il più vecchio pianse amaramente. Ancora una volta il più giovane aveva dimostrato di essere il migliore. aveva mandato a chiamare il fratello per rendergli chiaro prima di morire che tutto quello che c'era stato tra loro era stato dimenticato. Quel colloquio fu importante anche per un altro motivo. Il primo re, sospettoso come sempre e sufficientemente versato nelle scienze mediche, nutriva dei dubbi sulla natura della malattia del fratello. Alcuni sintomi erano strani. Quando Anna andò a palazzo dopo la morte del secondo re, la tonsura era quasi stata dimenticata nell'eccitazione che aveva seguito la proclamazione del lutto nazionale. Il re aveva fatto interrompere i lavori del palazzo Nanta Utayan, dove avrebbero dovuto trasferirsi le mogli e i figli se fosse morto prima del fratello e questi gli fosse succeduto al trono. Tutti gli artigiani che vi erano stati impegnati furono trasferiti al palazzo del secondo re per completare un edificio in cui il primo re avrebbe potuto vivere temporaneamente. Non sarebbe stato consono al suo rango abitare in una casa che era già stata occupata, ma il fratello aveva quasi finito un bel edificio in stile cinese appena a nord del palazzo principale. Qui, nel giro di una settimana, venne ad abitare il primo re. Il motivo ufficiale era per agire come amministratore delle proprietà del fratello, dietro esplicita richiesta di quest'ultimo. Nell'harem del palazzo del secondo re c'erano le sue figlie di tutti e quattro i regni e queste, si diceva, erano state affidate dal secondo al fratello più grande come solenne responsabilità. Nell'editto il re Monkut spiegava: il secondo re, sentendo di peggiorare, ha detto alla figlia più grande e alla secondogenita, le sorellastre del figlio maggiore, che era ammalato e che non poteva stare alla presenza di suo padre senza difficoltà, che lui, il secondo re, non aveva speranze di vivere che qualche giorno, non voleva fare un testamento per quanto riguardava la sua famiglia e le sue proprietà, dal momento che si sentiva abbastanza bene per parlare e per considerare tutto con lucidità e precisione. Aveva implorato i figli e le figlie e le mogli di non essere tristi per la sua morte che arrivava come evento naturale e di non temere la povertà o le difficoltà dopo la sua dipartita. Tutti avrebbero dovuto mettersi sotto la protezione del loro zio fedele e affezionato, il supremo re del Siam. E lui era sicuro che dopo la sua morte avrebbe fatto del suo meglio per la sua famiglia, come per le famiglie di principi e principesse reali che erano morti prima. Raccomandava solo ai suoi figli e alle sue figlie di essere sempre fedeli e leali con suo fratello più anziano, il supremo re del Siam, e di trattarlo con lo stesso affetto che avevano per lui, e che dovevano essere più fedeli ai parenti paterni che non a quelli materni, che non erano discendenti reali dei loro antenati. Nel pomeriggio il secondo re ha invitato Sua Maestà, il supremo re, suo fratello e Sua Eccellenza Chao Phya Sri Surya Wong Samua Prakralahom, il primo ministro, che è il principale capo del governo e cugino del re, a sedere con lui al capezzale dove giaceva, con altri membri della famiglia reale e della nobiltà che avrebbero potuto udire il suo discorso. Poi consegnò alla sua famiglia il suo seguito e tutte le sue proprietà a Sua Maestà e a Sua Eccellenza perché li proteggessero e decidessero per loro. Quando col passare dei giorni il re non tornò, nell'harem cominciò a serpeggiare l'inquietudine. Alcuni spiriti più audaci si lasciarono andare alla gioia, mentre diverse donne mandavano le loro schiave più fidate a consultare astrologi e veggenti. I pettegolezzi non si contavano, si vedevano gruppetti che confabulavano a ogni ora del giorno, il telegrafo femminile e i servizi segreti lavoravano a tempo pieno, c'era chi diceva che il re era stato stregato da qualche incantatrice nel palazzo di suo fratello e che non fosse più libero. Era risaputo a Bangkok che le donne dell'harem di Praping Klao erano le più belle del Laos, di Pegu, della Birmania e della Cambogia e si diceva che quelle del re fossero molto inferiori e la famosa principessa di Chiang Mai era ritenuta la donna più bella dell'harem, anche se molti non l'avevano mai vista. Correva anche voce che suonasse e cantasse con molta grazia e fascino. Poi, un giorno, Lady Songclin sussurrò ad Anna che la notte precedente le donne più affascinanti e con più talento dell'harem del secondo re erano state portate in gran riservo nel palazzo del re Monkut. Non si era mai verificato un avvenimento simile. Tutto l'interno ne fu indignato e scandalizzato. Anna udì più critiche aperte contro il re in quella circostanza di quante ne avesse mai ascoltate. La gelosia e la rabbia dell'interno contro le intruse per un momento coalizzò tutta la città delle donne. Non potevano esprimere il loro risentimento con il re per aver preso le mogli di suo fratello, quindi si trovarono unite nell'accanirsi contro le donne. Trovarono almeno 1000 maniere per dimostrare il loro disprezzo e per ignorare l'esistenza delle nuove arrivate. «È con loro la principessa di Chiang Mai?» chiese Anna a Song Lin. Quest'ultima scosse la testa. «No», rispose senza quasi muovere le labbra. «No, non c'è, almeno non ancora». «E il re è tornato?» Di nuovo Lady Song Lin scosse la testa. Anche i figli del re erano in preda all'agitazione che pervadeva la città interna. Sussurravano tra loro e ridacchiavano. Anna quasi non riusciva a mantenerne l'attenzione. Alla fine decise di mandarli a casa con un'ora di anticipo e si diresse con la principessa Soma Wadi a trovare Lady Tiang, che l'assenza del re aveva liberato dalla responsabilità della cucina reale. Quando Anna arrivò, stava giocando con il figlio più piccolo, una bambina di nome Kai di circa 2 anni. Un maschio, il nono figlio di Lady Tiang, era morto l'anno prima, pochi giorni dopo la nascita. Parlarono dei bambini e della scuola, ma inevitabilmente la loro conversazione finì sull'argomento che era nella mente di tutti. Anna aveva visto le donne del Laos? Sì, Lady Tiang tirò su col naso. Se lui non fa attenzione, disse scuotendo la testa minacciosamente, si ritroverà avvelenato. Anna la guardò immediatamente, intuendo un significato più profondo delle parole. Perché dice così? Chiese aspettandosi una risposta evasiva. Lady Tiang lanciò un'occhiata ad Anna, uno sguardo intelligente. Chiuse le labbra con fermezza, pensò per un attimo, poi spiegò: «Voglio dire che lui farà la stessa fine di suo fratello. Qualcuno lassù gli metterà del veleno nel cibo. Farebbe meglio prendere i suoi pasti qui da me. Dopotutto ho prevenuto per anni un simile destino». Le implicazioni erano orrende. «Vuole dire?» Anna parlò lentamente, tastando il terreno. «Che il secondo re è stato avvelenato?» Lady Tiang annuì. «Ma non lo sapeva!» sussurrò. «Lo hanno appena scoperto, lui e il Kralahom. Lui ha avuto i primi sospetti quando ha visto suo fratello, dopo che l'avevano portato a casa da Bansita». E raccontò ad Anna tutta la storia. Tra le concubine del secondo re c'era una donna che si chiamava Clip. Era la madre di molti dei suoi figli, dei quali il più vecchio ora aveva più di 20 anni. Come Lady Tiang, nel palazzo del primo re, a lei era stata affidata la cucina reale, ma era invidiosa delle altre donne, sospettosa dei loro disegni sulla sua posizione, intrigante e ambiziosa. Anni prima, quando aveva scoperto che non riusciva a ottenere l'influenza che voleva sul secondo re, era andata da un vecchio stregone infame che si chiamava Kun Het Na, signore del futuro, un esperto di magia nera molto consultato da donne di rango di tutto il paese. Per un enorme compenso aveva preparato per lei una serie di incantesimi e filtri. Lei aveva mischiato le medicine segrete nel cibo del secondo re non solo una volta, ma molte volte per un lungo periodo. I veleni avevano fatto effetto lentamente e a poco avevano minato il fisico robusto del secondo re. Poi ne avevano logorato la mente, cosicché verso la fine era depresso ed eccitabile e in preda a nebulose paure. Aveva consultato numerosi medici, nessuno dei quali era riuscito a diagnosticare la sua malattia. Alla fine era stato portato a casa a morire, senza che si fosse reso conto che era stato avvelenato da sua moglie. Anna ricordò la storia dell'oroscopo che le era stata raccontata dal vecchio prete Pranet. La terribile profezia si era avverata, dopo tutto. «E credo», concluse Lady Tiang, «che lui intenda punire Clip e Kun Het Na pubblicamente». «Vuole dire proclamare il loro crimine e torturarli e farli giustiziare?» «No, no», esclamò Lady Tiang inorridita. «Naturalmente non lo farà mai, nessuno sa che il secondo re è stato avvelenato. Se così fosse ci sarebbero sempre le male lingue che sussurrerebbero che la colpa è sua, del re, e che Clip era solo una complice o addirittura che lei non c'entrava per nulla». Anna ammise che c'era della saggezza in ciò. I laotiani, i cocincinesi e i cambogiani che vivevano a Bangkok erano tutti devoti al secondo re. Se si aggiunge la popolarità di cui godeva tra la sua gente, la situazione era carica di possibilità esplosive. Se fosse stato reso noto che il secondo re era morto avvelenato, la gelosia del primo re per il fratello più giovane avrebbe suscitato sospetti, soprattutto per la presenza costante del medico spia del primo re. Qualcuno avrebbe detto che il medico gli aveva dato il veleno e che Lady Clip era solo un capro espiatorio. Questi sospetti avrebbero anche potuto portare all'azione se il principe di Chiang Mai si fosse, ad esempio, messo a capo di un gruppo di rivoltosi o se avesse invitato i francesi ad aiutarlo con la potenza militare che avevano dislocato a Saigon. «Non è stato deciso niente?» si informò Anna, vedendo che Lady Tiang era ancora disposta a parlare. «Sì», rispose lei a voce bassa, «sì, i medici reali e il San Luang hanno giurato segretezza, ma la sentenza sarà eseguita domani. Se guarda fuori dalla finestra, vedrà la processione». Fu così. La concubina Lady Clip, l'indovino Kun Het Na e 9 schiave furono torturate e mostrate pubblicamente a Bangkok. Ma il crimine che avevano commesso non venne rivelato ai curiosi che si erano raccolti per guardare. Poi furono gettati in una barca aperta che fu portata fuori dal golfo del Siam e abbandonati. Tra le donne del palazzo si sussurrava che i vendicatori celesti li avevano trafitti con frecce di fulmini e lance di fuoco. 35. La principessa misteriosa. Anna era troppo stanca per preoccuparsi del malumore del re. Era persino contenta di non dover lottare per un po' con la sua corrispondenza, anche se provava pena per le donne la cui vita stava diventando insopportabile. Pensava molto al giovane principe Chula Longkorn, che in luglio sarebbe entrato in convento per 3 mesi. L'influenza di Anna su di lui in quel periodo, temporaneamente e forse per sempre, sarebbe terminata. Il ragazzo aveva occhi sognanti ed era pensieroso. La cerimonia della tonsura lo aveva profondamente colpito. Dallo studio dell'inglese e del Pali aveva maturato alti ideali di vita e desideri precoci inesprimibili. Anna avrebbe voluto risparmiargli lo shock dei primi contatti fuori del palazzo, ma era impossibile. Poteva solo sperare che il primo contatto con la realtà non gli facesse abbandonare tutte le sue aspirazioni. Anna si era chiesta se la tonsura, costata centinaia di migliaia di tikal e le energie di molte migliaia di persone, lo avrebbe riempito di alterigia, ma non sembrava. Recentemente, in un moto di autodedizione, le aveva confidato di invidiare la morte del venerabile prete, suo zio. Avrebbe preferito essere povero e doversi guadagnare da vivere che essere re. È vero, un povero deve lavorare sodo per guadagnarsi il pane quotidiano, ma poi è libero e il pane è tutto quello che è in gioco. Possiede tutto quanto è importante: la terra, il cielo, le stelle, i fiori e i bambini. Interruppe il suo sforzo per dare corpo a pensieri troppo profondi per la sua mente di tredicenne. So di essere grande, poiché faccio parte dell'infinito, ma solo per quello, e che tutto quello che vedo è mio e che vi appartengo e ne faccio parte. Se fossi soltanto un ragazzo povero, penso che sarei perfettamente felice. Mentre il terribile caldo di marzo e aprile si avvicinava, Anna diventava agitata e depressa. Aveva scritto a Tom Wilkinson, il cugino di suo marito, chiedendogli di trovare una scuola per Louis. Aveva deciso di rimandarlo a casa il più presto possibile. I suoi amici facevano pressione perché lei tornasse assieme a lui e c'erano giorni in cui non desiderava altro. Francis Cobb, che stava per lasciare Singapore, le aveva scritto implorandola di non farsi scrupolo a servirsi di lui se avesse deciso di andare in Europa. Aveva concluso la lettera nel solito modo devoto: «Posa il piede sopra di me, mia cara, e calpestami». Prima che avesse preso una decisione, la sua salute crollò. Si ammalò violentemente con un ritorno di febbre e Bibi corse a chiamare il dottor Campbell del consolato inglese, che andò a visitarla ogni giorno. Ma la febbre rimaneva alta e le sue forze diminuivano. Un giorno le comunicò che forse non era abbastanza forte per sopravvivere e che avrebbe fatto meglio a scegliere qualcuno a cui affidare i figli. Il consolato inglese, naturalmente, avrebbe eseguito i suoi desideri. L'avvertimento la liberò dal peso opprimente delle sue preoccupazioni. Provò un dolore profondo per i suoi figli, Avis a Londra e Louis a Bangkok, ma era così stanca e malata nel corpo e nello spirito che la prospettiva del riposo e del ricongiungimento con Leon, morto da 6 anni, le sembrava puro piacere. Gli anni duri in Siam avevano indebolito la sua voglia di vivere. In un intervallo di lucidità nel delirio, fece togliere da sotto il letto il suo baule rosso. Da anni conteneva i documenti importanti. Una volta, mentre viveva ancora dall'altra parte del fiume, era quasi stato rubato. Aveva attribuito la colpa all'interprete. Adesso le venne in mente questo incidente e si fece aprire il baule. Ne estrasse le carte che sarebbero state importanti per Louis e per Avis. Poi chiamò Bibi e le fece bruciare il resto. I suoi piccoli tesori e tutte le lettere personali, persino le preziose lettere di Leon. Era decisa a non lasciarle nelle mani dei suoi nemici e nemmeno dei curiosi. Aveva già redatto il testamento, lo aveva consegnato al dottor Campbell, era pronta alla fine. La sua vita era appesa a un esile filo, non voleva combattere, ma la morte non arrivava. Poi, un giorno, il dottore le portò un messaggio del re. Poteva morire in pace perché lui avrebbe adottato suo figlio. Lo shock agì da stimolo. Fece accostare al letto il dottor Campbell e gli sussurrò debolmente: «Lo fa a fin di bene, lo so, ma preferirei vivere 1000 anni in ogni genere di tormento che lasciargli adottare mio figlio». E da quel momento iniziò a riprendersi. In aprile ricevette dal re una lunga lettera amichevole. Terminava con quello che lui chiamò un postscritto molto privato che le rammentò il palazzo. Ricorda quando una volta, parecchi mesi fa, mi disse che avrei dovuto dare ufficialmente al mio primo figlio, il principe Chao Facula Longcorn, dignità di erede come il principe di Galles? Io ho rifiutato e negato le sue parole e ho affermato che la mia gente non è favorevole a un mio discendente e mi dispiace dire che anche molti stranieri pensano come la gente del posto. Anche se non ho commesso niente di male contro i diritti delle persone, sono impopolare. Allora lei ha negato di aver sentito questa voce da quando è arrivata in Siam. Come avrebbe potuto udire tali cose dal momento che tutti, indigeni e stranieri, sanno che lei è una mia partigiana e forse anche la mia spia? Chi avrebbe sostenuto questo davanti a lei? Adesso posso provare la verità di quello che le avevo detto allora. C'è un giornale a Singapore che si chiama Daily News, pubblicato dopo l'ultimo arrivo del battello Chow Pia a Singapore, dove appare una corrispondenza di un residente di Bangkok del 16 marzo, ma non ho copia del giornale in mio possesso. Il signor Jan Kim Ching non me lo ha mandato perché lo potessi vedere. Ne ho letto copia in mano a un individuo, quindi non ho il numero né la data del giornale, ma credo che sia nelle mani di parecchi stranieri a Bangkok e forse lo ha già letto, altrimenti lo può richiedere a Singapore e dopo averlo visto non potrà negare la mia affermazione precedente. Io e i miei discendenti non siamo amati dalla maggior parte della gente di qui, che spera in qualche altra amata famiglia. Si parlava di una principessa che lo scrivente considerava adatta ad essere la prima moglie del mio harem, una stanza in cui vengono confinate le donne orientali di sangue reale. Non mi era mai venuta in mente una cosa del genere, nemmeno in sogno, e se fosse così potrei morire forse. Tale corrispondenza, datata 16 marzo, deve venire dal consolato, ma non dal console stesso, senza dubbio, non da giornalisti americani o dal signor Chandler, che può avere idee diverse. Quanto ho scritto deve essere tenuto segreto. Desidero rimanere il suo fedele Mon Kut, che le augura ogni bene. Il riferimento all'altra amata famiglia rivelava che la gelosia del re verso la popolarità del fratello non era cessata nemmeno con la sua morte. Anna cercò il discutibile riferimento sul giornale di Singapore. Diceva: «Il re ha posato l'occhio su un'altra principessa di altissimo rango con la prospettiva di farne la regina consorte». Questo, in sé, non sarebbe stato così terribile se il contesto non avesse reso evidente che la principessa in questione era la principessa Duang Prapa, familiarmente chiamata principessa Tui, Cicciotta. Era una giovane donna di circa 28 anni, una delle figlie più vecchie del secondo re e quindi nipote di sua maestà. Ovviamente il corrispondente aveva udito le voci sulla principessa di Chiang Mai e aveva fatto confusione. Il recorder di Bangkok aveva aggiunto sale sulla ferita, manifestando nel commento alla cronaca di Singapore disapprovazione nei confronti del re. Adesso, considerando che ha 63 anni compiuti, che ha già decine di concubine, circa 80 tra figli e figli, tra cui parecchi Chao Fa, che possono aspirare alle posizioni più alte nel paese, questa voce sembra troppo orribile perché si possa darle credito, ma la verità è che non c'è nulla di troppo mostruoso per la poligamia dei reali in Siam. Anna capiva il risentimento del re a quella considerazione priva di tatto, ma la sua virtuosa indignazione la lasciava perplessa. Naturalmente non aveva progetti sulla nipote, ma era proprio vero che non nutrisse interesse per la principessa di Chiang Mai? Erano passati 5 anni da quando c'era stata una consorte con il rango di regina. A parte il fatto che era stata la moglie di suo fratello, la principessa di Chiang Mai sarebbe stata per molti versi la regina ideale. Inoltre, il suo matrimonio con il re avrebbe legato il recalcitrante principe di Chiang Mai al trono. Quando Anna si sentì abbastanza bene da tornare a palazzo, la curiosità per la principessa di Chiang Mai era sfumata. L'interno era tutto preso da altri pettegolezzi. Anche Bangkok si era stancata dell'argomento che per mesi aveva assorbito tutti. Il famigerato signor Obare sarebbe tornato in giugno e le congetture sul significato di quel ritorno rendevano impaziente la comunità straniera. Il palazzo si stava preparando per l'ingresso in monastero del principe, fissata per il 19 luglio. Quando ne fosse uscito, alla fine di ottobre, sarebbe stato considerato troppo vecchio per vivere entro i confini dell'interno. Si stavano facendo preparativi per adattare un edificio vicino al palazzo del padre, dentro il muro esterno, perché vi abitasse. Si sarebbe chiamato Wang Suan Kulap, il palazzo del giardino di rose. La principessa Lamom vi si sarebbe trasferita presto per assumerne il pieno controllo. Si diceva persino che il re avesse scelto la prima moglie di suo figlio, che a tempo debito sarebbe stata installata nella nuova residenza. La scelta sarebbe probabilmente caduta su una nipote del Kralahom. Il rito del noviziato era più solenne della tonsura, ma molto più semplice. Il primo giorno fu dedicato alla cerimonia della benedizione, il Vientien, la rotazione delle candele. Questo avvenne nella sala delle udienze, davanti a un gruppo di ospiti accuratamente selezionati. Il secondo giorno il principe venne vestito con costosi abiti bianchi e ornamenti simili a quelli che aveva indossato per la tonsura. In precedenza, nella mattinata, le sopracciglia e i capelli erano stati rasati. Poi alcuni preti lo accompagnarono dal palazzo del padre fino al tempio del Buddha di Smeraldo, lungo il cammino. La sua scorta a piedi nudi cantò inni della liturgia buddista. All'entrata del tempio, altri preti gli tolsero gli abiti costosi e lo vestirono semplicemente in bianco, mentre i canti continuavano. All'interno, i monaci stavano in doppio semicerchio e ciascuno aveva una candela accesa nei palmi chiusi. Il principe avanzò umilmente verso il sommo sacerdote nel centro del semicerchio con la schiena rivolta all'altare e si inchinò 3 volte chiedendo di venire ammesso nell'ordine. Il sommo sacerdote lo ricevette con le mani intrecciate con quelle del prete. Il principe fece voto di rinunciare agli affanni e alle tentazioni del mondo e di osservare con obbedienza le regole del noviziato. Poi fu vestito con la tunica gialla dell'ordine e istruito brevemente sui suoi doveri. La cerimonia era terminata.